A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Giacomo Spunti in regia e subito una domanda. Ma secondo voi questo Giro d'Italia che è partito da Venezia, chi lo vince? Messaggi 349-238-6666, telefonate 800-24-0024, ne parleremo oggi, ne parleremo da qui fino alla fine del Giro d'Italia, ovviamente nei nostri programmi sportivi lungo tutta la settimana. Ovviamente nei giornali radio, ovviamente nel GR Sport della mattina, perché questo Giro d'Italia del centenario è pieno di stelle, insomma non ce lo vogliamo perdere. Un sabato da Circoletto Rosso, lo dicevo prima anche nel giornale radio, mentre a Piacenza c'è la festa del Bari da ieri promosso in Serie A 1-1, a proposito del parziale di una partita che ormai non conta nulla. C'è una griglia di partenza che poi ci piace, perché Massa è quarto a Montmeló in Spagna. Domani si corre il Gran Premio della Spagna con Jenson Button, che ribadisce con la sua terza pole stagionale come la Brawn sia in questo momento la macchina da battere, insieme alla Red Bull, perché Vettel partirà accanto a Jenson Button. Seconda fila per Barrichello e Massa, terzo Weber e Glock. Quarta fila per Trulli, Alonso, Rosberg e Kubica in quinta, Raikkonen solo sedicesimo, dicevo prima nel giornale radio, ma poi ne parliamo con Mario Poltronieri. Nuovo errore del muretto della Ferrari che non manda in pista il pilota finlandese in tempo utile per accedere al Q2 e dunque partirà solo sedicesimo Kimi Raikkonen. C'è poi una pagina di pessime notizie, di cui pure parleremo. Si va da Tom Bonen, che ci ricasca, positivo alla cocaina, il vincitore della Roubaix, è notizia di oggi, sospeso già dal suo team. Si va verso un'altra lunga squalifica. A Tom Bonen questo era già successo. Non voglio far confusione, non voglio sentir parlare di doping, perché non lo è, non è un caso di doping questo. La pagina delle pessime notizie, delle notizie tristi, si estende fino in America, dove è morto Chuck Daly, cioè l'allenatore, stiamo parlando di basket naturalmente, poi lo faremo con Flavio Tranquillo, l'allenatore non solo dei Detroit Pistons, dei Bad Boys che vinsero due titoli NBA, ma soprattutto della squadra più forte che il mondo abbia mai visto, e cioè The Original Dream Team, quello vero, quello di Barcellona 92. Adesso però vorrei partire, come sempre facciamo il sabato, dal rugby. Palla ovale. Nel rugby c'è un'ultima giornata di regular season che si sta consumando. Questi parziali: Petrarca Padova 17, Almaviva Capitolina 15, Rovigo in vantaggio 15-3 sul campo del Casinò di Venezia. Attenzione al match di Calvisano: Calvisano 13, Overmac Cari Parma 8, quindi Gran Parma 11, Montepaschi e Verdana 24, Roma, futura Parc Roma 10, Benetton Treviso 8. Questi sono parziali. Giacomo Bagnasco, buonasera. Buonasera Carlo, buonasera a tutti gli ascoltatori. I parziali li abbiamo sentiti e possiamo dire che in zona retrocessione il Gran Parma sembra vicinissimo alla condanna, ricordiamo che retrocede una squadra sola, mentre in zona playoff Benetton e Viadana erano già sicuri. C'è questa volata a tre e con il Rovigo, che parte dalla quinta posizione ma vincendo, potrebbe superare la squadra che soccomberà tra Calvisano e Parma, quindi occhi su Calvisano, partita apertissima. Domani invece, Carlo, vorrei segnalare una partita, sì, di tutt'altro segno, una partita di solidarietà con l'Abruzzo. Si giocherà al Giuriati di Milano e torna una selezione molto gloriosa che ha fatto la storia del rugby negli anni 70-80 del rugby italiano, e sono le zebre che giocheranno contro l'Amatori Milano, in tasso totalmente devoluto alle popolazioni terremotate. Partita con più spunti di interesse: nell'Amatori Milano giocherà anche l'allenatore Massimo Cuttitta, un grande degli anni 90, un altro grande, Massimo Giovanelli. All'ultima partita della sua carriera sarà in campo con le Zebre, una selezione in sostanza della Serie A1, in cui giocheranno anche due giocatori dei Glasgow Warriors, l'argentino Núñez Piosse e lo scozzese Swindall. Appuntamento con la storia, quindi domani al Giuriati di Milano, a che ora, Giacomo? Alle 16, è un appuntamento che direi, appunto, sarebbe bello non perdere. Ci sono più motivi di interesse naturalmente che vanno anche al di là del rugby. Per quanto riguarda il bilancio della settimana, c'è poi naturalmente da registrare l'ufficializzazione della candidatura italiana per organizzare la Coppa del Mondo nel 2015 o nel 2019 la documentazione è stata consegnata, le candidature saranno presentate ufficialmente mercoledì a Dublino. L'Italia è in lotta con altre tre nazioni, vale a dire Inghilterra, Sudafrica e Giappone per il 2015 e con le sole Sudafrica e Giappone per il 2019. Anche questa è una bella lotta ed è una partita difficile da vincere, ma comunque la candidatura italiana viene accreditata in maniera consistente, certo, anche grazie alla copertura della Fideiussione che è arrivata in base a una legge approvata in via bipartisan e anche in modo estremamente veloce. Giacomo, diamo un timing anche per quanto riguarda le date dei playoff, visto che ci siamo, per chiudere. Ah beh sì, naturalmente i playoff partiranno già dalla prossima settimana, si sa che il rugby italiano dopo la sosta lunga sosta delle Sei Nazioni riparte a sprombattuto con il campionato, playoff su due sole partite, andata e ritorno e conteggio complessivo dei due incontri a partire dai punti classifica. E poi finalissima che quest'anno sarà il Flaminio di Roma, che nella ultimo fine settimana di maggio ospiterà la finale del campionato assoluto italiano, la finale della Serie A che determinerà la squadra che andrà nel Super 10, la finale del campionato femminile e la finale dell'Under 19. Quindi Caput Mundi più che mai. Sì, sì, sì, il Flaminio che oltre a essere il punto di riferimento per gli azzurri nel Sei Nazioni lo diventa anche, certo, per questa giornata conclusiva in grande stile. Grazie Giacomo, alla prossima. Grazie a voi. Grazie Giacomo Bagnasco. Dunque, il ciclismo, insomma, dai primi messaggi che leggo, chiesto all'inizio, ve lo chiedo ancora, chi vince secondo voi questo Giro d'Italia? Insomma, deve fare tanta strada ancora per guadagnare la credibilità sporcata quantomeno dagli ultimi pessimi anni, perché i primi messaggi sono: Paolo da Faenza, chi vince il Giro d'Italia lo vince il più drogato. Seba Reggio Emilia, chi lo vince? Ma la procura ovviamente. Altro ascoltatore anonimo: lo vince il più dopato? C'è poi, dopo questi tre messaggi arriva un Giampiero Mestre, lo vince Danilo Di Luca. Ripeto la domanda, chi lo vince questo giro? E noi un primo assaggio di giro ve lo diamo subito andando da Pier Augusto Stagi, che questo giro ci racconterà nei programmi e nei giornali radio. Ciao Pier Augusto, buon giro. Buon pomeriggio, ciao Carlo. Un primo flash di cronaca, poi torniamo dopo le 18.30 per raccontarvi tutto sull'arrivo di questa prima tappa e per chiacchierare di Giro d'Italia in generale. Che sta succedendo lì a Venezia? Ma intanto è partita anche la Stana di Lance Armstrong, quindi anche l'ultima squadra è partita e va 20 km da percorrere ad oltre 50 km orari. Al comando c'è la Columbia di Mark Cavendish, questo prodigio del velocismo mondiale, vincitore della Milano Sanremo, 23 anni, un italiano d'adozione perché ormai vive in Toscana, è partito dalla nostra terra e della nostra cucina e ambisce chiaramente a vestire la prima maglia rosa, Astana permettendo. Ivan Basso come è andato? Ivan Basso è andato così, la Liquigas ha pagato 40 secondi, peggio sono andati gli altri, a cominciare da Gilberto Simoni, quindi adesso dobbiamo vedere un attimo come arriverà Lance Armstrong e l'Alpiner, che lì tireremo poi le somme. Grazie Pier Augusto, ci sentiamo dopo le 18.30, appuntamento ufficiale anche con tutti voi. Intanto aspetto le vostre segnalazioni, i vostri messaggi. 349-238-6666, telefonate 800-24-0024 e la domanda è sempre la stessa. Questo giro chi lo vince? Ho un altro messaggio, speriamo che il giro lo vinca il più pulito, sul tenore di quelli precedenti che vi ho già letto. Purtroppo è inevitabile associare il ciclismo anche alla sua piaga ed il vincitore si porterà sulle spalle il sospetto di essere solo più furbo degli altri. 800-24-0024 per le telefonate, messaggi 349-238-6666. Saluto Mario Poltronieri. Ciao Mario. Ciao, ciao Carlo, buonasera a tutti. Giornata in chiaroscuro, un po' variabile come il cielo di Milano sulla Ferrari in Spagna, perché c'è un Massa che va abbastanza forte, quarto tempo per lui, una macchina che sembra in crescita. Ma c'è un altro errore del muretto, Raikkonen domani partirà dalla coda del gruppo, sedicesima posizione. Beh, ti dirò, povero Stefano Domenicali, il responsabile e direttore del team, e si prende naturalmente tutte le reprimende degli spettatori che hanno seguito la televisione la gara, ma è ancora da chiarire chi realmente ha deciso di non farlo uscire. Però una lontana responsabilità io la voglio anche attribuire alla follia del regolamento, che prevede la fornitura di gomme in numero così limitato che induce naturalmente a fare questo errore, perché praticamente uno ha nell'arco dei 3 giorni solo qualche treno di gomma buone, quindi è chiaro che cerca di tenerne uno per poterlo usare poi in gara. Certo. Per cui un errore senza dubbio grave, che era già stato fatto in Malesia per quel che riguardava Massa sul Q2, ma che comunque ha una responsabilità generale che va a finire anche nella complessità di questo regolamento. E prima di affrontare la corsa ti dico che una notizia appena arrivata è quella che il responsabile della Toyota, proprio in funzione di queste complessità e di queste discussioni tra la FOP e la FIA regolamentari, ha ventilato l'ipotesi che la Toyota non si iscriva al campionato 2010. Ha detto noi siamo interessati a fare questo mondiale, ma c'è troppo casino regolamentare, c'è poca chiarezza, chi guida questo pullman della Formula 1 non ci convince, quindi dobbiamo rifletterci a lungo. E quindi diciamo che c'è maretta in vista. Venendo invece alla corsa, diciamo che i 2 grandi protagonisti sono stati come prima Button e Vettel, sì, certo. Cioè indipendentemente da quello che potrà fare Massa, e sicuramente la Ferrari un passo avanti l'ha fatto, non dimentichiamoci che Raikkonen nelle prove ha fatto credo un decimo più di Massa, quindi avrebbe potuto essere tranquillamente insieme a lui. Però la sensazione nell'arco delle giornate di prove è che la Brown continua a dare velocissima, certo. Perché non dimentichiamoci che nel Q2 Barrichello ha fatto un tempo di 19 nel 154, cioè l'unico che è andato sotto l'1.20. Quindi io penso che realmente la lotta per la vittoria, se come al solito non succedono incidenti alla prima curva, e non voglio dire che sia Massa, ma certo che Massa cercherà in ogni modo di prendere la testa per poter gestire naturalmente la corsa. Molto sarà la strategia, e sotto questo profilo bisogna dire che alla Bronze sono stati molto bravi. Sì. Ecco. Però diciamo, i temi della corsa sono: cosa potrà fare Massa, che se non altro dimostrerà che nonostante tutte queste modifiche la Ferrari ha anche ripreso affidabilità. Certo, certo, certo. Comunque arrivi in fondo, questo è fondamentale. Beh, diciamo che in questo momento comunque, Mario, le macchine da battere, e basta leggere le prime file, sono ovviamente la Brown con Button primo e Barrichello terzo, ovviamente la Red Bull, Vettel secondo, Webber che è quinto, anche la Toyota sta andando bene con Glock e Trulli, sempre piuttosto male, anzi peggio del solito le McLaren. Sì, direi che effettivamente la fuoriuscita, non so se imposta o opportuna per questioni politiche, extrasportive, i reclami, eccetera, eccetera, eccetera, l'uscita di Ron Dennis sicuramente ha creato un po' di confusione nel team, perché sì. Whitmarsh, che è il nuovo diciamo responsabile del team, non ha il carisma che aveva ovviamente Ron Dennis, quindi può essere che ci sia qualche disfunzione. Non dimentichiamoci che anche la Ferrari nell'ultimissimo periodo di gestione di Enzo Ferrari, che non aveva più il potere di padroneggiare la squadra, addirittura c'erano 2 team che progettavano 2 macchine diverse e si facevano concorrenza interna. Qui ho la sensazione che ci sia appunto un problema grosso, perché non c'è un responsabile, certo, autorevole. Il gran capo carismatico è andato in pensione forzata, e quindi c'è un comprensibile scollamento, cosa che si verifica sotto altri termini, in un'altra luce, anche alla Ferrari, per i motivi che insomma che conosciamo ormai bene, che oggi si sono riproposti. Mario, ci sentiamo domani per commentare la corsa, che vedremo domani pomeriggio alle 14. Grazie Mario, a domani. A te, buonasera a tutti. Grazie a Mario Poltronieri. È il momento di fare la nostra digressione pallavolistica, perché c'è Andrea Zorzi che ci aspetta con il suo segno di Zorro. Voglio però rilanciarvi un altro paio di messaggi. C'è Maurizio da Catania, che ovviamente tifa per il siciliano Visconti e dice: Visconti a Roma in rosa. C'è anche un altro ascoltatore che scrive: speriamo basso. La domanda è sempre la stessa: chi lo vince secondo voi questo giro? Mentre c'è la stana per cui alcuni ascoltatori, vedo anche dai messaggi, fanno il tifo, cioè la stana di Armstrong sulle strade del Lido di Venezia. 800 24 00 24, telefonate, messaggi, 349 238 6666. Adesso andiamo sui campi di pallavolo, ci porta e ci guida Andrea Zorzi. Zorro, il segno suo è la zeta. Il segno di Zorro. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Io sono Andrea Zorzi e come sempre vi parlo di volley. Quest'anno i playoff maschili e femminili procedono a braccetto, uomini e donne hanno infatti archiviato gara 2 e sono pronti per il terzo confronto. Nel maschile, Trento e Piacenza giocheranno domani gara 3. Si riparte dall'1-1 in una sfida che resta apertissima. Trento ha confermato di essere una squadra imbattibile quando riesce a prendere il controllo del match, ma di patire talvolta alcuni momenti di amnesia. Piacenza invece sfrutta abilmente la sua straordinaria capacità camaleontica, cambiando giocatori, ruoli e tattica senza mai perdere lucidità e creando agli avversari dei seri grattacapi. Nel femminile, le Colibrì, soprannome con il quale vengono definite le ragazze di Pesaro, conducono la serie per 2-0 sulle Assistel di Novara. Stasera le atlete guidate da Zeroberto, campionessa in carica, hanno a disposizione il primo match point per vincere lo scudetto 2009. Facciamo il punto della situazione con Luciano Pedullà, allenatore di Novara, di cui ascoltiamo una breve scheda. Luciano Pedullà è nato a Novara e ha 52 anni. È soprannominato il professore perché è docente di educazione fisica nelle scuole medie superiori della sua città. Da sempre ha lavorato con le giovani, scoprendone il talento e aiutandole a crescere. Con lui, nella piccola e sconosciuta Omegna, iniziarono a giocare Paola Cardullo ed Eleonora Lobianco, che sarebbero poi diventate campionesse del mondo nel 2002. Ha allenato in molte città italiane, pur rimanendo molto legato all'Assistel Novara, che con lui approdò nella massima serie nel 2001. Due i grandi successi di Luciano Pedullà: l'oro con la nazionale juniores femminile agli europei del 2004 e la Coppa CEV di quest'anno. È un uomo che ama profondamente il volley. Gli piace il lavoro faticoso in palestra e l'adrenalina delle partite. Aiuta le campionesse e guida le giovani atlete con uguale passione ed efficacia. Ciao Luciano, benvenuto ai microfoni di Radio 24. Ciao Andrea, grazie mille. Partiamo subito dal match di stasera, che potrebbe significare scudetto per Pesaro. Con che animo affrontate questa partita? Con quello di non voler fare significare scudetto per Pesaro, con grande determinazione ma altrettanta serenità, giocando una partita alla volta, sapendo che questa partita non è la partita né per loro né per noi. Pesaro è una squadra molto equilibrata, composta da atlete talentuose, dotate di forte personalità, che hanno saputo creare un ottimo gruppo. Tu però hai detto che la serie non è finita. Basterà il vostro cuore? No, non basta assolutamente il nostro cuore. Questo l'abbiamo sempre messo in campo in tutte le partite. Ci vuole, come tu ben sai, tanta tattica, tanta tecnica, sicuramente tanta determinazione in difesa, dove forse in questo momento le partite che Pesaro ha perso in tutta la stagione sono state segnate da squadre che hanno difeso molto bene, Bergamo prima di tutto e anche noi quando l'abbiamo sconfitto nella partita in casa. Quindi ritieni che la difesa possa essere la chiave tattica per allungare la serie? Assolutamente sì, io ritengo che quando si gioca contro una squadra come Pesaro bisogna essere molto attenti, ripeto, dal punto di vista tattico, tanto a toccare a muro quanto però a prendere in difesa. D'altronde non sono io ad inventare il motto: con l'attacco si vincono le partite, con le difese si vincono i campionati. Facciamo un salto di luogo e di tempo. L'estate scorsa ci siamo incontrati in Giappone e tu, invece di riposare, stavi allenando una squadra di giovani ragazze giapponesi. Mi hai detto che stavi studiando. Cosa ti è rimasto di quell'esperienza? Innanzitutto è rimasta Cristina Barcellini, che era con me a lavorare, ha fatto 10 giorni di lavoro per migliorare i colpi d'attacco e il fondamentale di seconda linea, e questo ovviamente, visto il campionato che ha fatto, gli ha fatto solo bene. A me invece è rimasta tantissimo impressa la cultura giapponese, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista sociale, della quale ho un grandissimo ricordo. Io penso che loro comunque a livello di pallavolo siano dei maestri di tecnica. Hai già programmato un nuovo viaggio per la prossima estate? Ma a dire la verità no, quest'anno sono stato molto preso con questa stagione, con questo campionato, ho studiato tantissimo gli avversari nonostante li conoscessi bene, però ho cercato di essere molto attento perché veramente noi ci crediamo ancora a questo scudetto e abbiamo cercato di fare tutto il possibile per poterlo raggiungere. Ti va di fare una breve incursione nel maschile? Come vedi la sfida tra Trento e Piacenza? Ma se devo essere sincero, anche un pochettino di parte, perché sono un grandissimo ammiratore di Lorenzetti e del lavoro che fa. Ho visto con piacere il successo dell'ultima partita di Piacenza e ho visto soprattutto che riesce a fare delle cose incredibili spostando a destra e a sinistra le situazioni anche all'ultimo momento. È una pallavolo molto bella, a me è sempre piaciuto tantissimo il maschile. Penso che Trento forse sulla carta possa avere qualcosa di più dal punto di vista tecnico-tattico, ma penso anche che Lorenzetti e Piacenza abbiano tantissimo dal punto di vista della motivazione e questo gli potrebbe dare tanto. Ma a te piacerebbe allenare gli uomini? Moltissimo, moltissimo, è un mio desiderio, lo sogno tutto sommato, anche se penso che qui a Novara ovviamente sto benissimo, però credo che sia un'esperienza che mi manchi molto. Quindi vincere lo scudetto con Novara e passare agli uomini sarebbe un sogno che si realizza? Beh, guarda, se si dovesse realizzare questo sogno non mi ribarrebbe più nient'altro se non l'Olimpiade. Allora grazie mille per la tua disponibilità, in bocca al lupo per stasera, tienici informato anche sui tuoi viaggi in giro per il mondo per studiare volley. Ciao Luciano! Grazie mille, ciao a tutti! E vi saluto anch'io, ciao a tutti da Andrea Zorzi, noi ci risentiamo sabato prossimo su Radio 24 alle 17.25. È il momento di parlare ampiamente di Giro d'Italia nei prossimi giorni, nelle prossime tre settimane, molto spesso nei nostri programmi sportivi, nei nostri GR, sentirete molto spesso questa sigla. Voci dal Giro. Voci dal Giro, la nostra voce, i nostri occhi sono quelli di Pieraugusto Staggi con cui ci ricolleghiamo. Rieccoci Pieraugusto. Ciao Carlo. Allora, la corsa cosa sta dicendo? Sta dicendo che siamo, diciamo, alle battute conclusive, mancano poco più di due minuti alla prova della Stana che sta chiudendo logicamente questo cronometro. Al momento il comando è sempre la Colombia, che ha fatto registrare il miglior tempo, la Colombia di Mark Cavendish e anche dell'ingegnere Marco Pinotti, bergamasco, con lui c'è anche Possone, sono due gli italiani in questa formazione americana. Seconda è la Garmin, che era la grande favorita della vigilia, con Christian Van de Velde, invece si deve accontentare il secondo posto. Ottimo e sorprendente terzo posto della LPR Vini Farnese, la formazione capitanata da Danilo Di Luca e che hanno attraverso le fila anche Alessandro Petacchi. Hanno pagato 22 secondi alla Colombia, quindi diciamo che Di Luca da questa cronosquadre ne sta uscendo, diciamo, tra gli uomini che puntano a vincere il Giro d'Italia in maniera egregia. Guarda Piero Augusto, c'è Di Luca che sta parlando con la Rai, sentiamolo. Sono soddisfatto, il giro è appena iniziato, quindi anzi forse il giro deve ancora cominciare e soprattutto comincerà alla quarta tappa. Comincerà sulle salite, infatti anche Cuneo ha detto la stessa cosa, bisogna essere attendisti in questo giro, però difenderci fin da subito da meno. Ma io devo attaccare subito perché poi c'è la cronometro che mi devo difendere che è lunghissima, quindi per me il discorso è l'opposto, cioè devo attaccare subito e poi mi devo difendere. Quindi sull'Alpe di Susi aspettiamo Di Luca già da subito, magari. Ma anche a San Martino. Anche a San Martino, benissimo, grazie. Intanto Piero Augusto è andato all'attacco già oggi a cronometro con la sua squadra, è ottimo terzo posto. Lui ha già attaccato, è andato già in fuga, è verissimo, infatti tra le altre cose dice devo recuperare perché ho paura di perdere poi nelle cronometro, ma intanto nella cronosquadra ha dato delle belle lineate un po' a tutti. E devo dire che è andata molto bene anche l'Ampre NGC, la formazione di Cuneo. Conseghini e di Damiano Cunego, che ha fatto pratica allo stesso tempo della Liquigas di Van Basso. Quindi anche Cunego sorrideva all'arrivo, era estremamente soddisfatto, perché intanto da Van Basso non perde nulla. Quindi Di Luca guadagna secondi preziosi, una ventina di secondi, credo 18 per la precisione, a Ivan Basso. Cunego chiude pari e patta, quindi anche lì soddisfatto, ma sembra comunque già un buon giro, lo stiamo vivendo proprio in presa diretta con gli Astana che stanno arrivando sul traguardo, ormai siamo proprio al rush finale, credo che siamo vicini all'ultimo chilometro. Lance Armstrong ha in pratica fatto una gara di assoluto, tra virgolette, riposo, nel senso che non ha quasi mai dato il cambio, è sempre stato in penultima posizione, lo abbiamo anche visto pedalare non benissimo, a me pare anche un po' grosso a livello proprio di cosce e di sedere, mi sembra un po' appesantito, un paio di chili di troppo che costeranno caro all'americano sin da San Martino di Crestrozza, perché ricordiamo questo Giro d'Italia è particolare, si comincerà a salire sin dalla terza tappa e sono salite, non sono certamente per far girare la testa, ma sono salite a tutti gli effetti. Sì, è un giro molto diverso rispetto a quelli cui siamo abituati, ci sono le montagne all'inizio, poi prima le Alpi, poi gli Appennini, insomma un giro che vivrà di equilibri e di emozioni molto differenti rispetto al passato. Intanto l'Astana però, gran tempo. Intanto stanno arrivando gli Astana, sono a 300 metri dal traguardo, proprio rush finale, volata, si stanno proprio proiettando tutti, stanno svolgendo una loro volata personale, il tempo verranno preso sui primi 5, quindi gli altri 4 non fanno testo, volata e miglior tempo, terzo tempo per l'Astana, 13 secondi dalla Colombia, quindi tolgono dal podio la LPR, ma devo dire che appunto LPR è una bellissima prova per Di Luca Petacchi, e adesso dal domani Petacchi lui sperava probabilmente anche di guadagnare qualcosa di più per poter poi ambire con una volata gli abbuoni e mirare alla maglia rosa, probabilmente domani sarà un po' dura, ci sarà volata, certo. Ma temo che Mark Cavendish almeno a fare una volata nei primi tre ci arriverà, e quindi diciamo che Cavendish dovrebbe essere, diciamo, la stella di questi primi due giorni del Giro d'Italia. Sì, i primi due giorni e poi se ne riparla perché, come detto, cominciano le montagne. Pier Augusto, è ovvio come che i due uomini di sulla copertina siano Ivan Basso e Lance Armstrong. Basso dice: sono in forma smagliante, ovviamente il mio obiettivo è la vittoria finale al Giro d'Italia, eccetera. Armstrong corre più coperto, manda avanti l'Heipheimer, dice: lui sarà l'uomo da battere, io sono qui, vediamo che cosa combino. Realisticamente, dove può arrivare Armstrong? Ma lui è sicuramente un uomo di grande classe, ha una grandissima testa, perché quello che ha fatto l'ha fatto soprattutto per una grande testa. Però mi sembra che comunque ci sono delle difficoltà oggettive. Lui si è rotto una clavicola tre settimane fa, c'ha 12 viti nella clavicola, deve comunque ritrovare anche un peso forma che al momento mi sembra non avere. Credo che Lance Armstrong o gli daranno battaglia a tutti gli effetti sin da subito, ma se lo portano come hanno fatto come Contador nell'ultima settimana, che lì a pochi secondi, ricordiamoci che c'è la cronometro di 62 km alla 12ª tappa alle 5 terre, lì un Lance Armstrong potrebbe veramente dare sonore batoste a tutti. Sono d'accordo. Io credo che per lui in queste condizioni arrivare già nei 10 sarebbe un grandissimo risultato e non lo escluderei. Quanto a Ivan? Ma Ivan deve stare sereno, non farsi prendere dalla smania. Certo, oggi non è una giornata felicissima, ma come ha detto giustamente lo stesso Danilo Di Luca, il giro non è neanche incominciato. Comunque Cavendish è la prima maglia rosa, Mark Cavendish lo aspettiamo domani sul traguardo. Io un paio di euro li scommetto sul britannico volante per il traguardo di domani. Grazie Pier Augusto, ci sentiamo più tardi nel GR delle 19. Grazie. Grazie a voi. A più tardi con Pier Augusto Stagi e con il Giro d'Italia. Anche noi abbiamo appena cominciato. Ricordo, per tutte le tre settimane del Giro d'Italia, all'interno di tutti i programmi sportivi di Radio 24, che sono li conoscete, no? Tempo di Sport del weekend, con Gigi Garanzini durante la settimana, anche all'interno di Palaspicchi del venerdì, insomma, sempre collegati con il Giro d'Italia, poi speciale nel GR delle 19. Ovviamente ampia pagina nei GR Sport della mattina. Intanto la prima notizia che arriva dal giro è questa: Mark Cavendish con il suo Team Colombia ha vinto la cronosquadre del Lido di Venezia ed è la prima maglia rosa di questo giro. Team Colombia, Garmin, Astana, questo è il podio il primo podio del Giro d'Italia, cronosquadre, la prima maglia rosa invece, ripeto, parla l'inglese dell'isola di Man di Mark Cavendish, che domani la difenderà nel primo sprint di questa edizione del centenario. Se Cavendish è il primo re del giro, ovviamente non quello definitivo, Dinara Safina è la nuova regina degli internazionali d'Italia. Partita finita pochi istanti fa, la tennista russa numero uno al mondo ha battuto in finale Svetlana Kuznetsova, ovviamente con nazionale 6-3-6-2, un'ora e mezza di gioco. Questo risultato di Roma, adesso però voglio portarvi a una festa, che è quella del Bari. Festa che si è consumata Ieri, Baricalcio naturalmente, che si è consumata ieri davanti alla televisione e davanti al successo della Triestina sulla Livorno, oggi si consuma in questa partita appunto di festa a Piacenza. 2-2 il risultato del campo che nulla conta. A proposito, questi gli altri risultati di B parziali, ma siamo vicino alla fine delle gare: Salernitana 1, Avellino 0, Ancona Sassuolo 1-1, Brescia Cittadella 0-0, Empoli 3, Ascoli 0, Frosinone 1, Albino Leffe 0, Modena 1, Mantova 0, Parma 2, Pisa 0, Rimini 2, Grosseto 0. Andiamo a Piacenza alla festa con Emilio Buttaro. Ciao Emilio. Sì, grazie Carlo. Prosegue qui la festa, giusto come ricordavi dallo studio. Ci sono circa 4.000 e forse anche di più tifosi del Bari. Da ieri sera, come dicevi, è iniziata la festa dei tifosi del Bari, che già hanno esultato per ben 10 volte lontano dal San Nicola. Il risultato di oggi qui non ha moltissimo valore, almeno per... Io sono al fianco del presidente della formazione pugliese, Vincenzo Prese, al quale chiedo subito: presidente, è stato il successo del gruppo, come ha detto Antonio Conte? In effetti un gruppo formato durante l'anno è ben guidato da Conte e tutti i suoi collaboratori. È un gruppo che ha fatto divertire i baresi, che da diversi anni stavano soffrendo. Sono stati ricompensati quest'anno con questo gruppo. Presidente, qual è stato il momento decisivo della stagione? Ma un programma fatto innanzitutto l'anno scorso con anticipo, e poi a gennaio alcuni innesti molto validi che hanno contribuito a questo grande successo. Adesso a lei toccherà il compito un po' arduo di convincere Antonio Conte a rimanere sulla panchina biancorossa. Ma per me non è difficile. L'unico ostacolo è la Juve, ma se la Juve lo lascia libero, lui deve continuare in questo lavoro che ha iniziato con noi, ha formato un bel gruppo e potrebbe continuarlo a portare a guidarla anche in Serie A con i dovuti correttivi. Carlo, non so se hai qualche domanda dallo studio per il presidente del Bari. L'unica sono solo complimenti e una domanda sul Bari che verrà, se ci ha già pensato in qualche maniera, presidente. Ecco, dallo studio Carlo Genta chiede qualcosa sul Bari che verrà, se lei ha già iniziato a pensare qualcosa anche riguardo il futuro ormai imminente. Cercheremo di allestire una squadra per non retrocedere, non possiamo fare pazzie perché il momento è particolare, in Italia c'è un'economia che tutti conoscono, specialmente per le piccole squadre. Però mi fido molto di Perinetti ed eventualmente di Conte. Bene, grazie Vincenzo Matarrese, direi che è tutto Carlo, qui dal Garilli, e proprio in questo istante c'è il triplice fisso, è finita 2-2, a te Carlo. Grazie a Emilio Buttaro, dunque questa è la festa del Bari, a Piacenza finisce 2-2 questa gara, e finale anche il risultato di Parma, 2-0 sul Pisa. Finale anche il 3-0 dell'Empoli sull'Ascoli, si giocano ancora spiccioli di partite su tutti gli altri campi, poi risultati definitivi e classifica, subito dopo aver fatto la nostra chiacchierata del sabato con Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ci tocca partire oggi dalle notizie, dalla pagina delle notizie tristi, che l'ho citata in apertura di programma, la scomparsa di Chuck Daly, che molti si ricorderanno sulla partita sulla panchina dei Bad Boys di Detroit, vincere due titoli, ma soprattutto tutti o quasi si ricordano sulla panchina della squadra più forte della storia, quella di Barcellona 92. Eh sì, un grande della panchina che se ne va, accompagnato dal dolore e dalla solidarietà di tutti gli allenatori. La sua vicenda ha colpito tantissimi, perché Chuck Daly è uno dei pochi che è riuscito a vivere un ruolo con tutte queste pressioni nella maniera giusta, probabilmente non perdendo la dimensione umana, e non a caso è stato l'uomo che è riuscito a tenere quella squadra del 92 che aveva una pressione mediatica e non veramente incredibile. Lui era capace di giocare a golf alla mattina con Michael Jordan e poi di riprenderlo al pomeriggio in allenamento. E tra l'altro ha costruito anche comunque una squadra che ha fatto epoca a modo suo, quella di Detroit, i primi titoli di Detroit, una squadra brutta, sporca, cattiva e vincente. Sì, ha sempre avuto il dono di saper dare identità alle sue squadre, quella era l'identità giusta per quel gruppo, perché Thomas era così, perché Morn era così, perché Lembir era così, perché Rodman era così, e anche qui una delle grandi capacità dell'allenatore è quella di saper adattare tutto quello che fa in campo e attorno al campo al tipo di personalità che ha a disposizione. Chuck Daly era a testimonianza di tutti quelli che lo hanno conosciuto bene, un grande uomo prima che un grande allenatore. Flavio, rimaniamo in America per andare invece sulla cronaca spicciola, spicciola neanche tanto, sono playoff NBA con Los Angeles che nella notte ha fatto il colpo a Houston vincendo 108-94. Boston che ha perso con Orlando la seconda partita di questa serie, seconda sconfitta di questa serie, 117-96. La logica in questi playoff NBA dice Los Angeles Cleveland per la finale, vince Los Angeles. Però tutti ci auguriamo di trovare strada facendo una sorpresa, dove non riesco a capirlo. Ma una possibile sorpresa potrebbe essere Houston, che insomma è una squadra molto quadrata. Questa è una sconfitta che pesa, non finisce la serie, ma naturalmente è una sconfitta che pesa. Io credo che ci saranno più o meno fatica da fare a livello finale di conference per Cleveland e Lakers, ma alla fine arrivano questi due che mi sembrano tutti e due predestinati, uno come soprannome e l'altro predestinato anche senza soprannome. Non sono così sicuro che vincano i Lakers, ma ne parliamo perlomeno tra 2-3 settimane. E lì all'ultimo giro potrebbe esserci la sorpresona. Flavio, veniamo per chiudere dalla nostra parte dalla nostra parte dell'oceano. Domani si chiude la regular season con l'ennesima spada di Damocle di un cronometro malandrino, di una decisione strana, di un ricorso pendente, ovviamente quello di Rieti contro Ferrara nella partita dell'altra sera. Io qui vorrei un tuo pensiero su questa ennesima vicenda che va a metterla a cornice sul nostro campionato. Guarda, il pensiero è un po' articolato, cerco di farla il più corto possibile. Il pensiero è che non necessariamente ogni volta che c'è di mezzo un cronometro o una vicenda di cronometro bisogna partire dal presupposto che la partita è irregolare. Sì. Massimo rispetto per tutto quello che ha fatto Rieti in campo durante tutta la stagione e durante la partita contro Ferrara, in cui ha avuto anche 17-18 punti di vantaggio. Posto questo rispetto per quello che dimostrano le immagini, io credo in maniera inoppugnabile, è successo esattamente quello che è successo nella partita tra Fortitudo e Montegranaro, con la differenza che però in questo caso il cronometro è stato rimesso dove doveva essere rimesso. Se poi quel time out fosse da assegnare o non assegnare io non lo so, non lo posso sapere e certo, neanche mi interessa, certo. Però la decisione di assegnare un time out da parte del tavolo è come quella dell'arbitro di fischiare passi o fallo, tale rimane e non può essere oggetto di un ricorso. Quindi con la massima solidarietà e con invece molta meno solidarietà per tutti quelli che in tre mesi non hanno capito che c'è un problema di distribuzione delle responsabilità quando si parla di cronometrista e arbitri che hanno quello scatolotto al fianco che si chiama Precision Time, per cui anche loro possono far ripartire il cronometro. Quindi abbiamo fatto lo stesso pasticcio di tre mesi fa e questo è gravissimo, però questa volta gli ufficiali di campo sono stati così bravi da dire agli arbitri esattamente dove doveva essere rimesso il cronometro. Questo lo dimostrano le immagini. Poi sono stati fatti altri errori che sono gravi, seri, da prendere in considerazione, ma la mia impressione è che non abbiano inficiato la regolarità della partita. Perfettamente d'accordo con te, domani sera parliamo della griglia di playoff che verrà stampata dall'ultima giornata. Grazie Flavio, buon lavoro. Grazie anche a voi. A domani con Flavio Tranquillo, ovviamente con tutti gli appuntamenti del caso per il basket, dopo il GR delle 20, come sapete, con gli ultimi risultati dai campi, e poi domani sera ampiamente dalle 22 alle 23 parleremo ovviamente di Milan-Juventus che staremo guardando e dell'ultima giornata del campionato di basket. Intanto ufficializzo il finale della Serie B perché non si può lasciare la pagina aperta. Salernitana batte Avellino 1-0, Ancona batte Sassuolo 2-1, Brescia non batte nessuno, Brescia Cittadella 0-0, Empoli batte Ascoli 3-0, Frosinone batte Albino Leffe 2-0, Modena batte Mantova 1-0, Parma batte Pisa 2-0, Piacenza-Bari, come detto, 2-2, Rimini batte Grosseto 2-0. E così chiudiamo a tempo di sport di oggi. L'appuntamento è domani pomeriggio alle 17, dalle 17 alle 19. Grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Giacomo Spunti in regia. Buona serata a tutti.